Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Antonio, bentornato. Bentornata Gesi e bentornati soprattutto agli ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Pensa quanta voglia che avevano di sentire la tua voce, Antonio. Non facciamo del millantato credito, ma va bene così. Insomma, a noi fa piacere restare in compagnia di queste splendide persone che conosciamo soltanto attraverso qualche contatto telefonico o telematico, ma va bene così. L'importante è tenere compagnia. Comunque Antonio, siamo qui stasera per questa nuova stagione. Una nuova stagione che speriamo sia bella, che possiamo far compagnia ai nostri ascoltatori e così. Noi ci impegneremo a fondo per farlo. Noi come sempre ci impegniamo. Allora, siamo Gesi che vi saluta e Antonio naturalmente. Ecco, allora Antonio. Vi diamo un cordiale benvenuto evidentemente su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti è il 346 23 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. E ringraziamo e salutiamo il nostro regista Mirko. Eh sì, ciao Mirko, questa volta abbiamo... il nuovo, è il nostro capo, diciamo. Allora Antonio, quest'anno parleremo delle terre venete, cercheremo di allargare un po', invece che solo Padova, Venezia e Treviso, faremo anche altri territori, naturalmente sempre molto interessanti. Sì, certo. Oggi cominceremo con l'altopiano di Asiago e ci sarà la signora Turchetto, che è Franca Turchetto, che è una studiosa, a lei piace studiare tutte queste terre, Venezia, Asiago, anche perché poi lei, fra l'altro, ad Asiago va a fare le ferie tutti gli anni. Comunque, prima ascoltiamo un coro, ascoltiamo i Crodaioli con un coro di Beppi De Marzi, Mamma Toni me tocca. Mamma, mamma, piano me tocca, oh. Scusate, era mamma mamma Piero mi tocca, io chissà perché ho detto Toni, vabbè. Adesso fra pochissimo avremo la signora Franca Turchetto in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Franca, buonasera. Sì. Ascolta Franca, buonasera. Bentornata. Grazie altrettanto. Bentornata. E ben risentiti, tutti a posto, pimpanti. E grazie. Abbastanza, grazie. Ascolta Franca, da stasera di che cosa ci parlerai? Stasera, se sarà a vostro digradimento, vi darò qualche piccolo accenno su... l'altopiano di Asiago, però non come città attuale, ma Tonemidrio dei diversi secoli. Ho capito, sì sì, la storia periodo di... Periodo preistorico, sì, sì. Rovettina è così che me go un fiorentino commentà per hobby mio, insomma, sì. Non come storia, perché mi prometto, non so, né una storica e né una persona che si interessa di fatti di altri. Però sei una studiosa, ti piace... Beh, sì, curiosa. Ti piace, sì, appunto. Insomma, me go meravigliosa, perché nata a Venezia, le origini con i palafitti in acqua, mi ha toccato trovare i palafitti in montagna. Ma poi tu vai tutti gli anni, mi pare, a Asiago, sì, no? Sì, diversi anni, sì. Ah, oh, ecco. Sì. Benissimo, allora a te la parola. Allora, prima di tutto mi voglio cominciare con una poesia non mia, non so l'autore, che parla la postazione di questi sette comuni, diremo, Noese Antica e Nagatito. E ora intituiamo poesia, va bene? Va bene. E ora dice l'autore o l'autrice, si apre allo sguardo in una conca tra i monti il principale di tutti i sette comuni, Asiago. Enego sorge lontano, verso oriente, mentre i campi di Rozzo si stendono verso occidente. In mezzo si trovano Foggia, Gallio e Roana, mentre Louisiana è volta verso mezzogiorno. Qui non raccogli frutto dalle viti, non uve pendono, ma c'è un giardino pieno di fiori. Non vedi costumi di lusso, non grandi palazzi, nessuna opera di sfarzosa potenza. Qui scorrere di sorgenti, dilatarsi di pascoli e prati, qui mandrie di mucche e greggi di pecore. Sotto il povero tetto contenta di poco è la gente, veste panni comperati, e tutto il bosco risuona di colpi di scure, da dove provengono con dura fatica prodotti artigianali di legni. Bello. Ecco. Questa in sostanza descrive la vita, dell'altopiano. Certo. A me piacciono gli altopiani perché cammini in piano, tranquilla. Sì, adesso che ha fatto, cioè, si è modernizzato col turismo, che ha fatto strade e asfaltai, quelli che prima poteva essere percorsi sassosi, insomma, su quel tipo di montagna Asiago, più che ti vadi o camminare o in bicicletta. Perché qua macchina, con pullman, con robe, insomma, non si vede niente. Tu cammini o vai in bici? No, ho cominciato a sentire, no, in bicicletta no, perché mi abito, a casa che abito di stasi, un sentino fuori al centro di Asiago, è verso Roana. È il paese natale di Enrico Fabbri, il grande campione di pattinaggio sul ghiaccio. Bene. E in più sono una piccola frazione più su di Roana, perciò sono fiantini isolata dal centro, con tutte le mie comodità. Sono verso appunto la parte più antica di Asiago. Allora, ci sono sette comuni. Sì. Allora, sarebbe Asiago? Dunque, che se Asiago, Enego, Gallio, Foggia, Camporovere, e aspetta, Enego, sette, insomma, dai, adesso non mi ricordo tutti. Ho capito, sì. Ad ogni modo, vada, Asiago in antico non si chiamava Asiago, ma bensì Asiliago. Dopo Assillago. Ma per i cimbri antichi e abitanti della Topian si chiama Sleghe ancora. Sleghe, che vorrei dire taglio di boschi. Ho capito. Perché allora, quando chiesi di vai, cioè, Asiago in cimbro, si chiama Sleghe. Difatti, quando che ti tira occasione, o chi, adesso dico ti, di chi, sotto è parola Sleghe, o sotto sola, che se Asiago, Sleghe. Abbiamo fatto sì. Va bene. Insomma, sti cimbri hanno voluto anche loro dare il loro nome. Ebbene, cioè in cimbro Asiago, Sleghe. Sì, ora, questi nomi antichi di Asiago, capitale dell'altopiano, se stai riconosciuti città con reso decreto di Vittorio Emanuele III nel 1924, a seguito degli eventi della Gran Guerra, quando sto centro, come gran parte di sette comuni, viene completamente ridotto a rovinarsi con la guerra del 1518. Rasa al suolo totale, è antica Asiago. E adesso... Quindi è tutta moderna adesso, è stata rifatta? Adesso è stata rifatta, adesso il centro di Asiago è un centro cittadino, ma veramente special de pien de turismo, che se gran alberghi, che se gran botteghe con i loghi firmati di grandi stilisti. Mamma mia, non sì. Ti va neanche, ti va a guardare per te nel presso. Sarà cara lì, anche lì la vita. Beh, la vita è cara come casa dappertutto. E ho rigasso, beh, a produzione diremo de formaggio, i gai prosciutti, i gamme, il miel che confetture, che robe ama come tutto il resto importa da fuori, anche frutta, insomma, non ricchi che abbia campi di pomi, di peri, gran supermercati in Caia, e gran forme di formaggio va e venga, cosa così buon. Ben, come anche loro si sono modernizzati. Beh, no, sì, no, hai po' anche persone laboriose, cioè donne come qua e vanca loro a servizio nei tascai. Eh beh, sì, sì. Ti ha capito. Ma... però io devo distruggere tutto perché fa gran case, gran villini, gran... centri, spacca fuori il solito vizio veneto. Sì, ma ti vedi Antonio, dopo mette vende, si vende. Questo si vende, vende, sì, ma dopo non torna di più niente. Tanto ti vedi che sei delle casette, diremo ancora qui, più antiche, che ha tutte rimodernate, molto belle, perché ha materiale, origa piera, e qua piera gli fa effetto, gli mette che bei mattoni, blocchi di piera, insomma, gli fa ben. Però, insomma, i svergine anche in montagna, tutto, dove che se roccia si spacca, esatto. E ti vedi sta gran buse, che fa per sempre capo a rete, queste buse, gran, vendersi, sì. Alloggi, alberghi, di moderna, ma tanta roba così. L'illusione praticamente del progresso infinito. Ma se senti esagerato, e ora ti vedi dove che mi vado in viaggiatura, è un fiantino fuori che è ancora su robetta antica, è ancora su casette povere, e anche se gente magari dentro vive ben, i ha tutte quelle legnare, così chiama legnare, queste cose che si degna, chi si procura, e anche gli compra, perché non si è detto chi gli passa, okay. Insomma, non so quanta anni, si mette anche in letto. Ascolta Franca, ci fermiamo un attimo per la canzone. Sì. Ecco, poi ci risentiamo, eh? Sì, va bene, grazie. Bene. Allora ci ascolteremo Impressioni di settembre da Franco Battiato. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Sul prato resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. vento, sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo ancora la nostra Franca. Franca? Sì. Ci sei? Ma prima che mi desmentica, che dopo io ripeterò tre volte, i sette comuni di Asiago, Enego, Lusiana, Gallio, Fozza, Roana e Rozzo. Fozza. Con due zitta. E Rozzo, che Rozzo sarebbe proprio il paese proprio che dà l'origine a tutto. Ma che sia di origine antica questa... Sì, adesso ti dico, allora torniamo qualche secolo fa, ma tanti secoli fa. Tanti? Tanti abbastanza. Sì. Allora, i primi insediamenti umani, ise del periodo paleolitico e mesolitico addirittura, e gli abitanti stabili, quelli che dopo si affermano, gli appartiene all'epoca romana addirittura, avanti Cristo, eh? Sì. Nella parlata e nella sua tradizione cimbra si arriva anche a indizi che ne riporta ai Goti o altre popolazioni barbariche di influenza longobarda. Pensate quanto in Dio che andiamo. Longa è storia. Sì, per quello dico. Dunque, l'origine di sta gente germanofona, senti che parola difficile. Che sì. No, no, ma è corretto. Proviene addirittura, o è proveniva, adesso parlo il presente, dal territorio del Jutland in Danimarca. Pensa che ha tentato di invadere l'Italia, ma è stata sconfitta dall'esercito romano, comandata da Gaio o Caio, secondo Caio Mario, nel 101 avanti Cristo. Pensa un po'. Che posti è questa popolazione? Siamo qui che si è affermata, perché prima dei ori, gli aveva tentato 100 anni prima, ancora prima, un'altra invasione, diciamo, perché ori praticamente gli aveva fatto un esodo come Mosè sul deserto. Ah. E partiva da che carovane, miera di gente, che man mano chi veniva avanti verso gli Alpi, perché nei posti sui, in Alta Italia, in Germania, era tanto freddo. Allora chi che arrivava sopravviveva, ma che c'erano tanti che moriva dalla fame e del freddo, perché anni aveva agricoltura. E ora venendo verso qua, la strada facendo, i sega ingrumati altra gente, di altre etnie, di altre... insomma, altra gente, e ora partiva, no? Diremo col sacco in spalla, col bastone, gli aveva i suoi cavalli, gli aveva i suoi vacchi, gli aveva i pecore, gli aveva i suoi cari, gli erano cavestì, insomma, no? Quei giubini... Come noi adesso, sì. Però c'era gente forte, perché appunto abituati a temperature fredde, sapevano che resiste, però... E intemperie, sì, però i piccinini e donne, insomma, che c'era questo problema. E ora, di fatto, insomma, torniamo a Caio Mario. E ad immanenza di quei che sopravvivuo a queste cose, insomma, i segari tirassero le montagne dell'Alto Piano, dando proprio origine alla razza dei moderni cimbri, no? Quindi adesso, quindi sempre secoli fa, che nel 1300 scominse a dar vita ai sette comuni, organizzandosi anche militarmente per difendersi allora dall'espansione di vicini paroni come il potente signorotto del Castellivano. Sapete dove c'è il Castellivano? Ah, io no. È in Valsugana, verso Trento. Ah. Prima passavo Ospedaletto, Castelletto e anche se il Castellivano mi fatta età che sono andata dentro. Ancora contavo da che parte è della montagna. Hai visitato anche il Castellivano? Sì, ma tanti anni fa contavo da che parte. Allora, si è difeso da sto signorotto e gli ha trovato l'appoggio da Erzellino III da Romano. Un altro di quei buoni. Ecco, allora, tra il 1036 e il 1260, cioè quando ho avuto quei anni, sti comuni, e ripeto, Asiago, gli diventa alleati formando in mezzo truppe dell'esercito di Erzellino. Ti vedi che non era proprio stupidotti? No, decisamente no. E era forti. I già combattivi, anche se andava via col forcone, con la paeta, con la scoa, insomma, i menava. E difatti, nel 1310, Asiago viene definito statuto di aspettabile residenza di 7 comuni, addirittura nel mio... Addirittura, pensa un po', aveva già la sua importanza, sì. All'insegna, io aveva un'insegna, se sta un tocco di ferro, non so se era, che ho scritto questi se gli antichi comuni fra dei cari. Cioè, i poteva andare anche ben d'accordo. Sì, è molto... La comunità importante. La comunità molto importante. Mie 3, 27, ti vedi quando che cambia 100 anni, 10, 50, sì, mantenendo la propria autonomia e amministrazione, e passa sotto la potenza di Scaligeri. Altra gente, buona, da toccio. Tutti signorotti. Ecco, nel 1387, sotto i Visconti de Miam, di Milano, sì. Però col stesso rispetto della propria libertà, gli abitanti vien denominati i tedeschi delle montagne del distretto di Vicenza. Ah, esatto. Addirittura i tedeschi. L'autorevolezza già all'epoca. Sì, che c'era da. Dopo, parliamo ora, andiamo avanti con quella data, ma dopo qua mi fermo. Nel 1404, cioè dal 1003 andiamo al 1004, si passa 100 anni, i comuni gli fa spontaneo atto di devozione e fedeltà alla Repubblica di Venezia. Quindi... Che come sapevamo già, dopo Ribaltone, scomincia a slargare il suo dominio nella terraferma. Venezia è diventata parona di tutto. Cioè, ora gli dà fedeltà e obbedienza e comincia a Venezia a slargare le sate. Quindi sono passati... L'espansione in terraferma. Sì, dopo questa, sì. E ora qua... dico una robettina per finire il fatto della reggenza veneziana, sì. Ma dopo te ne mindrio. Sì. Allora, è Serenissima che promette la libertà nei costumi e regole della vita, che li rendeva diverse dagli abitanti di un'altra sottostante pianura e di mantenerli in piena autonomia. Ti vedi l'accordo che c'era? Sì. Non dica mai che ti sai. Infatti questo era un segno di intelligenza politica. Oh, Venezia. Sì. Promettendo forniture militari, perché dopo che comincia anche a diventare grandetti sti cimbri. Certo. Gli un invio di specialisti per addestrare i recluti dei comuni, in più rapporti commerciali a favore della reggenza, e che assava libertà dei rapporti. Certo. Cioè, e pretendeva, ma anche dava. Sì. Questa è la grandezza proprio della... Allora, il Montanari ora promette a Venezia di salvaguardare i confini con soldati propri, cioè già la reggenza sua, ti vedi che già era già autonomo in questo. Sì. Negando mandare eserciti da altri stati. No, aiuti con... ora babà. I suoi, per chi già era forti. Garantendo i che garantiva personale dei volontari nell'esercito riguardo San Marco, per esempio se Venezia aveva bisogno loro erano disponibili e ora era disponibile, ti vedi che contratto che ha fatto, altro che, ma bello, molto bello, sì. L'alleanza dura per 400 anni, mamma mia, una cosa più unica che rara. Sì. Con rispetto del lavoro, tenendo sotto controllo i vastissimi pascoli, chi era fa conto all'epoca, io aveva 10.000 bovini. Mamma mia. Miera di ettari de boschi, sì. De abeti, larisi e alberi da faso. Ecco, ti interrompo un attimo, sì, pensa al paragone tra la reggenza, tra la sistemazione eccetera di un tempo e il degrado che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Ma certo, decenni, ma proprio anche... prima di ultimi decenni, sì. Come che si rispettava. Straordinario, che sarebbe da imparare tanto. Perché ho preferito a farvi sapere questa roba. Cioè, mi domando scusa se qualche duni ne No, ma è importante. Allora, dice, i boschi, e oltre al legno da bruciare e ai ramagli per l'industria del carbone, perché faceva il carbone dolce, ora non aveva i fornaci, bruciava i stecchi e provvedeva il carbone dolce. Sì, sì. Gli forniva piante di alto fusto, alberi di Roma, che veniva transita verso il porto di Valstagna. Valstagna, dov'è Valstagna? Valstagna se, per andare a Bassam. Insomma, gli stanziava su Valstagna fino all'arsenale di Venezia. Penso. E veniva attraversando tutta la Brenta, i tronchi. proveniva proprio per sto motivo, è reggenza dei sette comuni, che ha fatto costruire la famosissima Calà del Sasso, chiese dei 4.444 scaini. Ah, è famosa, è famosa. Allora io ributtava giù sti tronchi legno, gli faceva tutto il salto della Calà del Sasso, andava a star giusto nel Brenta, non so quanti mesi, quanti giorni che stava oggi in acqua, dopo che c'era i sattaroni, e per via Brenta, qua corrente del Brenta, arrivava in laguna. Isatari. Ecco. Che bello. Che poi ho sentito, dopo c'era questa parentesi qua, dopo ho sentito che ste, verso l'Ottocento, diremo, con che stai coltivazione del tabacco, da Deai buttava su anche i rotoli e foglie del tabacco. Penso, anche quello. Sì, cioè perché si andava che era in alto i pianori che era sole. Un sistema ingegnoso. Sì, ma te dico, guarda, de volte ti parli di una roba, non ti sa che sei tutto assolutamente tutto la storia di Rio. Esatto. Comunque io volevo dire che hanno avuto diverse, prima la signoria dei Visconti, però mi pare che Venezia sia stata la migliore. Beh, Venezia è sempre stata migliore in tutto. Esattamente. Non si può, avrà fatto il succarognai, perché guarda, mi non difendo, però come regole, come ordini, come leggi, insomma, non si discute. No. Ci fermiamo un attimino, sì, per una canzone, sì, sì. E dopo ci risentiamo. Sì. Allora, ascolteremo dagli Alligatori, che era un gruppo musicale verso la fine degli anni 60, e che ha ripreso una canzone che era abbastanza datata, però sempre molto carina. Settembre ti dirà. Settembre ti dirà, piccola bimba mia, tutta la nostra grande amor, ti parlerà di me, che ormai sarò lontano, e ti dirà che vano sperare tanto ancora. L'autunno è tanto triste, e tu sei triste con me, come il nostro amore, che non tornerà mai più. No, no, no, no. Nostro grande amore. Ed eccoci di nuovo in studio, abbiamo la Franca di nuovo con noi che ci racconta di questa affascinante terra. Adesso mi racconto una fiaba. Bene. Bene. Allora, no, tornando sempre al discorso di attraversata che ha fatto sti popoli per montagne di qua e di là, insomma, dopo giustamente come ho detto prima si è aggiunta altre rasse, altre etnie, e dice che sto cimbro si installa, cioè è il popolo cimbro, quello che si installa nell'altopian, non sei quello che ha sterminato Gaio Mario nel 101, sì. prima ancora. Io dice che i primi che abitano questo territorio erano probabilmente pagani, erano anche i cimbri, ma i pagani. Tanto pagani, perché mi so delle storie o leggende che parleremo. Sì. I primi erano probabilmente pagani, e tanto che sopravvive una leggenda, che parla di un anno devastato da una tremenda siccità. E per superarla, per poter dar fronte insomma, a questa disgrazia, una tosa Deori sarebbe stata sacrificata a qualche divinità, perché faceva anche questo. Ah sì, beh, i pagani. In altri casi, e consacrava a folta vegetazione di boschi all'interno dei caverne che i dice che fosse stai abitare dai fate, dai nani, paragonando purtroppo anche altre divinità con altrettante offerte, cioè non c'era solo attosa e basta, che c'era di riti proprio di un paganesimo orrendo, orrendo da parte brutta. Un esperto di cimbrologia fa sapere che una certa zona chiamata Odergat, adesso non so se è ancora, che vorrei dire giardino di Udino, Odergat. Viene da giardino Udino, che ha a che fare con Udino, c'è chi dice che aveva il Valhalla, ecco, e difatti arriviamo qua. Che non vorrei altro, cioè che sto giardino di Udino non sia altro che una imitazione italiana del Voltan. Voltan sarebbe stato principe del dio della guerra e della poesia, che abitava niente manco che nel Falala, che ha detto io giustamente Antonio. Ti vedi? Che belle ste leggende però. Allora, ecco che nel nostro Atopian ne porta a Sigifrido e ai Nibelunghi. Che ha musicato Wagner, sì. Esiste ancora adesso un Tanzerlock, e il chiese ancora, che ogni anno... Tanzerlock. Che vorrei dire buso o caverna, praticamente un anfratto dove secondo la tradizione si eseguiva bai propiziatori. E ancora adesso, come se il Festival Cimbro, in luglio, fa questa ricorrenza qua. Sto Tanzerlock si trova su un paese fuori a Camporovere. Sarebbe un chilometro, una frazione, dai, sì, sarebbe un chilometro in fuori, sarebbe più verso Asiago, Asiago, e che se sta busa, che è una busa grande, proprio scavata sulla roccia, che è vasoso come a cono, ma grande però, e su sta busa qua dice che all'epoca, adesso non so, era sempre piena di giasso, specialmente d'inverno, e quando chi sgraffava sto giasso veniva fuori acqua per fornire fontane ed anche da bere a tutto il bestiame. Però... E sta praticamente asciutta. Allora ori rievoca queste cose pagane con bai anche adesso moderni, che se cori che viene da fuori, illumina tutto questo percorso, perché si è fatto un percorso, se tutto illumina, e fa concerti di musica, di bai, insomma, di strighe, chi più gana metta. Che se di tutto, che poi di roba qua, se in modo parleremo. Sì, anche sì, torneremo su Asiago. Sta a parlarte a... Sì. Dopo parliamo, e penso sia l'ultima, sì, no, l'ultima, vado avanti. L'uomo dell'altopiano, praticamente, io lavoravo tanto con i selci, faceva tutto, seste, tutto quello che fa con tutta roba artigianale. Tutta roba artigianale, sì. No? E ne ha valdassa che se dei graffiti rupestri sui deori, che non so cosa che vuol dire scritto, se è a lettura, se è alfabeti, se è disegni. Dei graffiti con gli egiziani e i geoglifici, i graffiti insomma, che sarebbe addirittura fonti mute che ne parla di una preistorica presenza umana sull'altopiano. E ora gli dice che aveva un afflusso stagionale che era dovuto a caccia, ora che c'era cinghiali, orsi, lepre, tutte le bestie selvatiche che può essere che su un bosco, ora che aveva tutte. Però Eori trovava tanto materiale degno, perché Eori si faceva strumenti di lavoro, gli faceva raschiatoi, grattatoi, lame, non cortei, perché era l'età metà bronzo e metà ferro, perciò Eori si faceva i suoi piccoli fonderie, gli faceva i forni, e a battiti che batton cammin, gli ha cominciato insomma a batter ferro, finché c'era caldo. Ma sai, una volta l'uomo era molto ingegnoso, sì, molto più di adesso. Sì, era obbligatoriamente ingegnoso, certo. Anche perché sennò non poteva progredire, evidentemente. Allora, venimo a una scoperta di un villaggio che si chiama del Bostel di Rozzo. È un piano, un fiantino più su della strada principale, diremo, che nel 1781 l'abate, un certo abate Agostino del Pozzo, scavando a terra, perché non c'era niente, era un pianolo, scavando a terra, e che ha trovato tracce di un popolo, forse il primo a stabilirsi su sti monti, e che ha trovato il coso dell'archeologia. Pensa che emozione, sotto però. Che dopo le gattonette ralga, deve scavare una miera di case, di fondazione di casa, dopo si sta coperte, per semplice fatto che forse non che si fondi, perché una volta che ti scoverti sta roba, bisogna che ti gabi cura, sennò si polverizza, esatto, l'aria. Comunque deve essere un'emozione fortissima, sì, trovare un altro. Sì, guardati, ora è che trova queste casette interae, avanzi le scugee di Pironi, se la stai degno, o forse anche si faceva col metallo e ori, attrezzi di bronzo, ferro, schei d'argento, de conio romano, ti vedi? Ah, de conio romano. Sì, perché ossi di animali, e a parlare da cimbra, ti dico, se ancora adesso il documento più sicuro delle origini di questa gente. E ora che mantenio, oltre che sua tradizione, la lingua. Ah, un caso abbastanza raro. Questo territorio, un tempo impraticabile e selvaggio, è stato rifugio per frange di tribù e popoli che nei tormentai secoli romani che dovesto smamare da propria terra e arrivare qua passando le Alpi. Allora Franca, aspetta, finiamo. No. Dopo ti chiediamo ancora un momento di pazienza. Sì, va bene? Ecco, va bene, allora adesso ci ascoltiamo l'uva fogarina da I Girasoli. Cusir non lo sa far, è il sol della campagna, è il sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, la disca gli fa mal. Teresina ambria con una poca voglia di lavorar, la se tocca la vestaglia, la gancura da pagar. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, è il sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, la disca gli fa mal. Cusir non lo sa far, è il sol della campagna, è il sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, la disca gli fa mal. Teresina Andria con una poca voglia di lavorar, la se tota la mestraia, la gancura da pagar. Filar non vuol vuol filar, cusir non lo sa far. El sol della campagna, el sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far. El sol della campagna, la disca de famar. Oh come bella l'uva pocarina, oh come bello saperla vendemmiar, e far l'amor con la mia bella, e far l'amore in mezzo a entrar. Brindidi, brindidi, oh come bella l'uva pocarina. Bene, siamo di nuovo in studio e abbiamo ancora la nostra Franca. Franca? Ciao, sì, sono qua. Ci sei? Posso dire Zan Zan? Zan Zan? Sì, cerchiamo di fare cose allegre, di tenere un po' allegre le persone. Bene. Ancora due o tre robettine e dopo. Dunque, stati, e ora parliamo un po' dell'origine di questa parlata, che cosa parla prima, ma che è sempre robe nuove. Insomma, l'idioma denomina cimbro, è proprio una lingua tedesca, ma tedesca forte, e si parla ancora adesso a Roana. Sì, ma cioè, allora non è un dialetto loro, no, è una lingua, lingua, tutti i dialetti sono lingua. Sì. Ma ciò, questi qua, essendo stati i primi che si sparonzona dove chi se andai, c'era Iori che comandava la sua lingua, non che ne c'era altre, non c'era abitato che si arrivava Iori, c'era deserto, bosco, prati, roba, sì. E praticamente proprio sull'altopiano di Roana, però insomma a me che vado, insomma non sento proprio chi parla in tedesco, forse c'è qualche vecchio ancora che ricorda antichi, che si ricorda del zio, nonno. Cosa parlano nel dialetto vicentino? Beh, parla sì, o il dialetto vicentino, qualche di magari parla anche un italiano, Iuria, non so, che italiano, sì, perché cocchia è verta, io praticamente parleria più appunto su quella tendenza vicentina. Vicentina, sì. De cimbro, che se solo e insegne stradai, diremo, che sotto il sottotitolo. Ho capito. Che non ti ne capisci un tubo. Per esempio, so che è mezza selva, dove che insomma ha un significato, però sotto non ghese. E dove che gomì, diremo, il condominio di quello lì, è via Ze Peta, non mi ricordo più, via Kreutzer. Tedesco. Scusa Franca, mezza selva, che hai detto che ha un significato. Sì, cosa che vuol dire mezza selva? Mi è stato detto che è proprio mezza selva come metà. Ah, perché non che sia selva tutta intera, perché dopo avendo fatto strade, avendo fatto case e robe, è spaccata da stato tocco. Ho capito. Però è ad avere un altro significato. Dal momento che è in tedesco sotto, in tedesco non lo capisco. Io dirò all'interprete che lo capisco. Chiameremo qualcuno che conosce il tedesco. Ma è duro. È duro forte, perché va anche via Kreutzer. Kreutzer. Vose un crocevia, che era una croce di qualche Cristo, dopo i pagani, non lo so. Guarda, Gese da tre anni, che quando chi fa la festa sua, gli stiamo al Festival Cimbro, no? Oga Zeit, sarebbe la grande festa, che ne parleremo insomma. Sì. Ben, che si sta un professor, Martello, se di cognome, che appunto l'insegna, che insegna lingua, roba, insomma, roba cimbra, tra lui e Sofia, gli ha fatto delle carte, ma non no, gli ha fatto carte da gioco, che mi devo comprare col masso di queste carte su tutta la via, diremo, da Roana a Rozzo e in tutti i vicoletti che si ha progredito questo casette sotto un fiantino, qualche sentieretto, e ho rimesso gli chiama delle pagine di quaderno magari adesso di metallo, gli ha addirittura invidai sui muri, che così noi venga vai via e piovano, e che se tutti i personaggi che ha abita la preistoria di sta località, che se l'orco, che se è fatto, che se è l'uomo del bosco, che se l'aquila, che se il toro, che se la vacca, un percorso proprio, che se gli elfi, che se i nani, storia illustrata, che ma ti sa che bei colori, e sotto che se ora, che se è descrizione in italiano, e sotto che se in tedesco, bello, molto bello, che se cose, cosa si. Aspetta, iguane. Le anguane. Tutte che storie hai, ma non mi ricordo. Tipo il Massariol. Il Massariol, tutta che roba è, ma se bei grandi, sai, sarà 40 per 20. Però? Sì, sì, sì, bei colorati, ma è con piacere vederli. E nessuno li tocca, nessuno che fa graffiti, nessuno che fa... Rispetto del passato. Eccomi, questi libri qua, illustrati, mi devo comprare carte, ma è un gioco difficile. Quindi non lo giochi? No, perché è un gioco, intanto bisogna farlo con qualcuno che conosce il sistema. Praticamente adesso mi con una carta mi fuori l'orco. Quella che viene dopo a raccontare una storia inventata da Daori che si abbina con l'orco. E quindi occorre conoscenza. È una roba proprio da filò di stare a... Sì, ti vedi che... Ascolta Franca, ne hai ancora storia da raccontare? No, dottor Rubette, se interessa, se no se fermiamo. No, perché volevamo leggere qualche poesia tua. Va bene, tua. Allora leggo una cosetta ultima. Sì, no, proprio ultima. Anche per farti un omaggio, insomma, grazie, che lo meriti. Grazie, insomma. No, teso, dottor Righetti, sì. Tornando tutto al discorso di prima, sta immigrazione, quando chi si arriva qua e ora si presenta in modo pacifico, in cerca di terra da coltivare per sopravvivere, e era guidato spesso dai vescovi o dei rappresentanti imperiali di ordine religioso, come risulta in qualche documento della sua storia. Su sto terreno, l'altopiano, i trova terre in libertà, una posizione sicura. Gli scomincia a serne a strade, far suo case e paesi, bonificando vai, altopiani e organizzando la propria esistenza e mantenendo nel reattivo isolamento i caratteri di usanze e costumi, ma soprattutto la sua parlata cimbra. Ho finito. Bene, allora Franca, adesso noi leggiamo qualche poesia tua, perché insomma veramente te lo meriti. E poi ci sentiremo qualche altra volta, e poi ci sarà Venezia, ci sarà... Sì, ma sì. Comunque anche di Asiago ci sarà ancora qualcosa da dire. Ecco, appunto. Tante robe. Allora intanto noi ti ringraziamo. Sì. E ti auguriamo e poi buona settimana. Un saluto cordiale a tutti. Un grande saluto e un abbraccio, Franca. Grazie. Ciao, Franca. Ciao, grazie. Ciao. Adesso ringraziamo veramente di cuore la Franca, perché è sempre esauriente, sempre gentile. Insomma, per fargli un piccolo omaggio, dopo la canzone leggeremo qualche sua poesia, perché è una bravissima poetessa. La canzone si intitola Settembre, cantata da Peppino Gagliardi. Fra qualche giorno finirà l'estate. E sulla spiaggia niente resterà, le ore passate saranno un ricordo che noi porteremo lontano io e te. L'estate se ne andrà insieme al sole, l'amore se n'è andato già con lei. Le prime gocce baciano la sabbia e stanno già bagnando gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma senza non ti troverà e piangeranno solo gli occhi miei. Eccoci di nuovo in studio, siamo addirittura d'arrivo con la puntata e quindi per fare un omaggio alla nostra amica Franca abbiamo deciso di leggere alcune poesie della sua silloge Emotion da non perder, poesia in dialetto e poesia in italiano. La prima si chiama doverosamente Autunno. E il vento mormora tra mezzo le foggie, Aua spande i suoi balsami, le foggie indolsie nel fermento ed ondo è ora de qua, ora dea. Bessa armoniosa se travasa sora sta terra vergine, e il sol sue pergo ed eua pomposo e ride, basando verde caveae de vin bianco e nero. Lisiera, lenta, na nuvoe a navega, a gironzo e attorno, amiga presente, sgionfa de aguassa. Un placido tramonto pittura l'aria, un baso, l'ultimo sbadiglio del sol, nell'amplesso senza fin, e a natura fa festa, inventando nuovi amori. Bene, io sempre da questa silloge leggo una poesia in italiano. A tante di quelle poesie, la Franca, che veramente ci vorrebbe non so quante trasmissioni, ma molto belle. Decisamente. Ecco, io leggo Nelle tue mani. Mi tieni nelle tue mani, non sono un regalo. Non appendermi nel vuoto dei tuoi pensieri. Ho fame di affetto e il mio digiuno non saziarlo con la noia. Guardami, non sono il tuo specchio dove rifletti desideri spenti. Non toccarmi con la frusta. Non sono una conquista del tuo orgoglio di padrone, ma solo una donna digiuna d'amore. Sono quella lacrima che tu non vedi. Sono la tenerezza che respingi, sono quel sogno che cerchi di dimenticare, perché di notte non ti fa dormire. Barattiamo l'amore senza farci guerra, lasciamo la luce accesa e diamo una mano alla pace. Ascoltiamoci in silenzio, dove il mio pianto nasce da una sconfitta. Io non mi ribello, sta nel patto. È molto emozionante. Sì. A ti vita, imbrogiando le ore, scavo con unge de sasso a scorsa del tempo, a vita siga a sua potenza. Struco nei man sogni de silenzio, sfiassi invisibili tacai al ganso del cuor. E speranze diventa vento, e drento fondai de vero, nell'acqua se resenta l'arfiar degli afani. Ma ne a notte, quando se impissa estee, nel profumo de nove stagion, anche la luna per me ricama cussini de sogno. Voglio star desmissiada, contarle estee, spetar a prima aurora e diga al giorno, stago ben co ti, vita. Molto bella anche questa, eh? Bene, adesso un'altra in italiano, racconta vecchio. E tu, vecchio, racconta la tua storia. Racconta della tua vita con il mare, quel mare che ti ha fatto quasi da padre. Racconta dei suoi soffi, dei suoi canti, l'incrociarsi delle onde alte, larghe, gonfie, che come sirene si riposano sotto il sole. Racconta, vecchio, delle notti a cielo sereno, cuore, anima raccolti nell'eco dell'infinito, in muti pensieri di estasi intossicati dall'acqua del vento. Racconta, vecchio, dell'alba nuova, del primo sale, dei primi spruzzi salati perle attaccate sulla pelle arrostita, e nel gridare dei gabbiani innamorati perdersi nel gelo del garbino di tramontana. Ma di notte, quando il silenzio fa da sentinella, racconta, vecchio, dove va a morire il mare? Forse si nasconde tra le nuvole zingare, fra le ali bianche del cielo, o nel tuo cuore, nella tua miseria, nel tuo respiro, fatto di acqua salata. Emozionante. Vero? E tu adesso ne hai? Sì, possiamo fare un'altra. Primavera, come naturalmente abbiamo ancora una lunga stagione da passare, però primavera mi è piaciuta. Va bene. Un sgorlar de poine se destira sora a terra, siora del sol e tapei de oro. Erba despetenada, smorosa, coi papaveri e l'arzare de vero, se imponga nel speciar la natura. Un svoiar de sega ricama l'aria, caressando e nuvo e che in terra e vuol desmontar. Farfae de cristae o svoe a troto e a sora vanese de veudo, insucae dal boresso dei fiori. Nossente e pavege, sciocco del sasso, sgiogo contagioso dei boccia scalmanai, e un batter de occio e va a morir, sora sti cussini profumai. Ce ne sono molte che sono straordinarie e belle, e sì. Danno anche, come dire, di pathos. Da pensare, sì, danno, sì, decisamente, sì, da pensare. E un'ultima, ruffianessi di poesia. Ah, sì. Coe a punta dei dei sfrego e sfiassi scarlai, trameso e toraise meto semenza per novi butti. Te darò vestito nuovo e nii destro a ti poesia. Refoi de Boreso nel scoprir segreti, sgionfa e ai del mio pensar, e per farte cocoeona tiro pinsi de nuvo e per infiocchetar rime. Meto tra meso e righe scravassi de morbin e un arpesar de bressa de scoea n'imbriagadure de luna, drento respiro de pra. In cremisi sarà tapeo de fiori, gornisar profumo dove ricamo del sol se specia dentro l'oro del gran. E sarà il mio pensier d'ondoearte su cussini de veno, donarte anima porzion de rime rebego e corrersi incontro co fa putei in festa. Qualuna se fa baion, pusada nel pergo e o de nuvoe, n'imbastirò per ti frasi segrete per farghe onor ai poeti del vento. Questa è bella. Ecco. Comunque la prossima volta avremo occasione, anche per se non la troviamo, e leggeremo Uomo, che benissimo, è molto bella. Nel frattempo diamo un cordiale saluto e una buona notte a tutte le nostre amiche e i nostri amici. Ringraziamo il regista Mirko. Grazie Mirko. E come sempre, affettuosamente vi saluto dicendovi ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.